di questa Roma meticcia e comunque di andare avanti in maniera determinata con le mobilitazioni e le lotte, nonostante quello che è accaduto nei giorni scorsi e nonostante anche le varie provocazioni avvenute nel corso della giornata, che sono iniziate appunto già dalla tarda mattinata, quando il furgone che doveva arrivare alla manifestazione con l'amplificazione è stato seguito, fermato, poi è stato fatto ripartire, rifermato per una seconda volta, per cui fondamentalmente si è riusciti a far arrivare questo furgone quando eravamo già davanti al CIE di Ponte Galeria. Chiaramente siamo stati tutti molto attenti e lucidi ad assumerci la necessità di mantenere quella piazza nella maniera in cui l'avevamo convocata. Era una piazza che d'altra parte ha raccolto credo 10.000 persone, all'incirca diverse migliaia, non so dare il numero preciso, però era davvero un bel corteo. Un bel corteo molto compatto, un corteo meticcio, così come appunto si è visto nei mesi scorsi a Roma, di una composizione sociale che in lotta insieme per i diritti, è una manifestazione bellissima fatta di migranti, di tanti migranti e di tanti italiani che chiaramente hanno una lettura precisa del motivo per cui esistono strutture come il CIE, del motivo per cui esiste la Bossi-Fini, del motivo per cui anche, non dimentichiamolo, la Turco Napolitano tanti anni fa aveva aperto la strada per regolamentare il fenomeno migratorio nel nostro paese, chiaramente con l'intenzione e la necessità di sfruttare i migranti che vengono qui, appunto, che quindi devono vedere la loro permanenza condizionata al permesso di soggiorno. Certo. Ma chiaramente il tema non era solo questo, c'erano in piazza oltre ai migranti appunto che finiscono nei CIE, c'erano tanti rifugiati che scappano dalle guerre, che magari noi stessi gli portiamo e che arrivano in Italia ed entrano in quel meccanismo allucinante di sfruttamento che consente di tenere sotto controllo decine di migliaia di persone e consente a chi appunto gestisce l'ordine pubblico di agire in una certa maniera, ma anche a tutti coloro che di immigrazione e di controllo campano, di campare appunto, di portare avanti le loro lobby e i loro interessi. D'altra parte questo è anche un tema di cui si sta discutendo in un convegno a Bologna al quale avremmo dovuto partecipare anche noi romani, ma che chiaramente dopo quanto accaduto nei giorni scorsi con le misure nei confronti di 17 attivisti non ci ha chiaramente dato la possibilità di organizzarci e andare. Però insomma è giusto per ricordare che oltre alla Piazza Romana oggi in Italia stanno succedendo altre cose. Dicevo prima il convegno di Bologna sulle risorse, su chi decide come le risorse pubbliche debbano essere utilizzate, e c'è una manifestazione in corso a Ferrara alla quale ci sentiamo chiaramente molto vicini, alla manifestazione su Federica Aldrovandi. Sì, li abbiamo sentiti esatto, all'inizio, quindi, perché chiaramente ci sentiamo molto vicini a quella manifestazione, così come ci sentiamo chiaramente vicini alla manifestazione in corso a Monza, dove appunto qualche giorno fa c'è stato lo sgombero del laboratorio K2O e la demolizione di quello spazio, uno spazio anche lì di conflitto che sta in relazione con tutto il percorso che si è messo in piedi verso e oltre il 19 ottobre. Per cui da questo punto di vista la valutazione che facciamo della manifestazione di oggi determinata, che tra l'altro ripeto è riuscita a non cadere in provocazione ed è riuscita anche a praticare le cose che aveva deciso di praticare, per cui ripeto, nonostante i dispositivi pesanti di sicurezza intorno al CIE, comunque la volontà di migliaia di persone di comunicare con i reclusi all'interno, che tra l'altro abbiamo sentito telefonicamente, come immagino chiaramente avrà fatto la radio nel corso del pomeriggio, appunto la volontà di farsi sentire da dentro, di fare sentire una solidarietà attiva e la volontà anche di segnalare con forza appunto che non c'è la possibilità di riformare i CIE o di umanizzarli. I CIE, come tutte le galere, vanno chiusi, e per questo si è praticata anche un'iniziativa simbolica, però molto forte, che è stata quella di abbattere un lungo pezzo di rete, nonostante appunto i controlli anche dall'interno. E, un'ultima cosa che vorrei dire, insomma, rispetto ad oggi e rispetto ai prossimi mesi di mobilitazione, chiaramente ripeto, la manifestazione di oggi per noi si inserisce in un percorso, appunto quel percorso meticcio che tutti i giorni le realtà sociali e i movimenti portano avanti a Roma sul tema del diritto alla casa, del reddito, della libertà di movimento, e chiaramente è una delle giornate, anche questa, di avvicinamento alle due giornate del 14 e del 15 marzo, che anche dopo i fatti accaduti ai Facchini di Bologna, appunto con quella repressione spietata, le 17 misure cautelari nei confronti dei nostri compagni romani e le misure arrivate pesantissime, anche quelle contro i disoccupati napoletani, pensiamo che debba essere rilanciata con forza questa due giorni, che già era stata lanciata da Abitare nella crisi e che è stata assunta fortemente dall'Assemblea Nazionale del Nome alla Sapienza, e che vuole appunto parlare di scardinare appunto questi dispositivi repressivi che ci sono stati costruiti intorno. Chiaramente non ho ricordato prima i NOTAV, ma è evidente, insomma, che le accuse di terrorismo contro i NOTAV da questo punto di vista sono state solo l'inizio, insomma, di una stagione pesante e nuova repressiva. E dicevo, in quella due giorni vorremmo affermare con forza la legittimità delle lotte sociali, la legittimità di violare leggi che riteniamo assolutamente illegittime, appunto per reclamare la libertà di tutti e tutti, la libertà di movimento, appunto, ma anche la libertà di poter violare delle leggi che non tengono assolutamente, che sono leggi che evidentemente sono fatte per mantenere controllo e sfruttamento. E noi vogliamo dire con forza, insieme alle realtà, ai movimenti che tutti i giorni praticano una forte rottura per affermare i diritti, appunto che è legittimo per che ribellarsi totali. È giusto, dai, che basta. Ribellarsi è giusto, esatto, che illegittima è la legge, e che quindi appunto questa due giorni andrà costruita con molta forza e determinazione. Benissimo, noi ti ringraziamo, continueremo a sentirci comunque quasi quotidianamente, quindi la valutazione è positiva. E noi speriamo e lavoreremo perché ci siano sempre di più manifestazioni di questo genere.